dedans. Ah, peut-être pas, moi aussi. Manuel parado rindo janga pur si so tre mise canun desca pur si ha coperto d'indolietta si è ristretto senza freedom and just stai tu e non mare posa più che felicità, che felicità. Pure se la fortuna si è bloccata non sarà pure si travolta tutto è fornuta ma la nitta pure si mi perde mezza scala e poi non sale più e mi viene a pigliare tu pure siamo fatte cape cape sono struccate ma una ragione e non mi arrabbia più. Felicità, che felicità. Felicità, che felicità, che felicità. Já vá.